Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era il 1997 e come ogni anno, il primo giorno di scuola a Oca di Gombola si attendeva di conoscere la nuova maestra. Sono Ferrarini Leo, abito a Gombola, un piccolo paese sull'Appennino modenese. Lavoro presso un ufficio, un'associazione dove teniamo contabilità di piccole aziende e facciamo dichiarazione dei redditi. Su, basta, calma. Facciamo l'appello. Vabbè. Betty Sandro. Non c'è, lavora. Che lavoro fa? Lavora la fruttarolo. Sì, sul monte. Quale monte? Il monte di Croce. Lei è arrivato. Del Croce Luciano. Tu quanti anni hai? 11. Si parla di maestri oggi e lo si fa anche grazie a questo pezzo di un magnifico film che si chiama Diario di un maestro, un film del 73 di Vittorio De Seta, in cui si segue un documentario, in realtà, in cui si segue la vita di questo maestro in una scuola di borgata romana. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:09. Oggi è un qualunque giovedì 11 di aprile del 2013. La storia di oggi è la storia di Leo e parla di una maestra, anzi non di una maestra, parla della maestra Anna. E parla di questa maestra perché questa è una di quelle maestre che, come dice lui, gli è rimasta più impressa rispetto a tutte le maestre e le professoresse che ha avuto, per un motivo molto particolare, perché era un po' una maestra in stile capitano mio capitano. 349-238-6666 per tutti quelli che hanno visto quel film, che è L'attimo fuggente. Quello che ho detto avrà avuto un senso, però tutti hanno visto L'attimo fuggente, quindi per tutti avrà un senso, avrete capito di che tipo di insegnante o di maestra o di professore stiamo parlando. Simone sul profilo Facebook di questo programma, che Voi siete qui Radio 24, lo ha capito e scrive: la maestra Luisella era la mia insegnante capitano mio capitano, quando in quarta elementare un giorno ci detta un tema dal titolo Autunno, prodromi di un tempo che fu. Nessuno di noi aveva chiaramente capito nulla, ma lei ci disse: scrivete ugualmente, sono sicuro che uscirà una poesia. Quel tema lo tengo ancora. 349-238-6666. Gaetano, ricordo Don Massimo, professore di religione, che ci diceva che essere sui banchi di scuola al mattino era un sacrilegio. La mattina, lui sosteneva, era il momento più bello della giornata e andava vissuto e respirato. Chi vi ricordate che vi ha detto queste cose in un'aula scolastica? Qual era il professore? Qual era il maestro, l'insegnante, che in qualche modo, per quanto un po' astruso, un po' particolare o probabilmente un po' fuori dagli schemi potesse sembrare, in realtà vi ha detto qualcosa, vi ha insegnato qualcosa che ancora oggi, a distanza di anni, vi ricordate? 349-238-6666. C'è un bel post di Emilio che magari ripostiamo, è molto lungo. Lui parla di un maestro particolare che in realtà è un maestro di moto, dice, guida le moto di lavoro, prima faceva il pilota, adesso insegna agli altri a guidare. Ripeto, è molto lungo la storia di questo maestro che si chiama Beppe e che faceva le pareggi Dakar, e adesso sono di quelli che insegnano alla gente tipo della mia età che andiamo a fare il motocross, ecco, degli sfigati tipo me che prendono un fine settimana e cercano di imparare a guidare delle moto che in strada non sarebbero in grado di guidare. Lui mi dice che in realtà loro due si sono conosciuti e si sono insegnati reciprocamente delle cose, lui andare in bici, l'altro ad andare in moto, e chiude così: mi ha insegnato a credere nei miei sogni, mi ha insegnato a non girarmi e guardarmi indietro quando sei a metà della strada, mi ha insegnato a non mollare mai, mai e poi mai, fino alla fine. E poi soprattutto mi ha insegnato a sognare, che a questo mondo, se non sei fortunato abbastanza per incontrare uno che ti insegna a sognare, sei fottuto. 349-238-6666. Un po' credo che la maestra Anna, la maestra di Leo, un pochettino a lui e ai suoi compagni, abbia insegnato a sognare. Era il 1977 e come ogni anno, il primo giorno di scuola a Oca di Gombola si attendeva di conoscere la nuova maestra. Oca di Gombola era una borgata che raccoglieva i bimbi provenienti dalla zona intorno, che percorrevano a piedi fino a 3 chilometri per raggiungerla. Era però ritenuta una scuola ai margini e le maestre la sceglievano solo se proprio non avevano altra scelta, e le maestre ogni anno cambiavano. A quel tempo le maestre erano ritenute quasi infallibili e mai e poi mai i genitori si potevano permettere di criticarle o intromettersi nel loro lavoro. Gli alunni erano sempre di meno e si era tutti in un'unica pluriclasse, composta da Alessandro e Roberta in quinta, Patrizia in quarta, Leo, Massimo e Patrizia in terza, Gianni in seconda e Sandra in prima. L'aula era una stanza messa a disposizione dalla proprietaria di una casa, la quale fungeva anche da bidella. Faceva il caffè alla maestra a merenda e a volte focaccine profumate e croccanti per noi alunni. E finalmente, un giorno, anche quell'anno, la maestra arrivò. Si chiamava Anna, signorina, sui 35 anni, viso rotondo, capelli corti e subito mostratasi originale. La maestra Anna è una maestra che ho avuto in terza elementare e si è presentata da subito abbastanza originale, soprattutto per i modi di fare e per i modi di insegnare. Sicuramente non seguiva i metodi tradizionali ai quali noi eravamo abituati. Ben presto lo manifestò con i fatti. Aveva metodi alternativi di insegnamento che a noi studenti non dispiacevano, ma che ben presto cominciarono a preoccupare i genitori. Quei genitori che prima di allora non avrebbero mai contraddetto la maestra. Uno dei primi temi che ci diede da fare a casa, indistintamente dall'età, fu questo: è notte, guardo il cielo e... Un altro tema, questa volta in classe, era analizzate il nome della maestra. In classe ci faceva marciare attorno ai banchi cantando e picchiando i piedi per terra, forte a tal punto che facemmo crepare il pavimento. Un giorno ci portò ad aiutare un agricoltore vicino a cui era scappata una mucca dalla stalla. Ma, vista la nostra età ovviamente, a quel contadino portammo più che altro preoccupazioni che non aiuto. Un giorno di pioggia invece ci fece cercare, fuori dalla classe, qualsiasi oggetto che si avvicinasse a pesare un chilogrammo, mentre lei ci aspettava in classe con la pesa. Figuratevi quanto sporco e fango portammo in aula quel giorno. Ma lei era così. Un po' semplice, sicuramente molto affettuosa, tanto che venne alla festa del paese e ci comprò alla bancarella un giochino, e ce l'ho ancora, un topino meccanico che nella mia intenzione al ritorno a casa avrei fatto rincorrere dai gatti. Insomma, a noi studenti piaceva andare a scuola, non ci sentivamo intimoriti, impauriti o giudicati, e forse prendemmo troppa confidenza, tanto che un giorno le facemmo uno scherzo. I grandi della classe spostarono avanti le lancette degli orologi di 2 ore. E così, al rientro dalla ricreazione, con viso innocente, le dicemmo che era ora di andare a casa, mostrando a conferma gli orologi. Lei rimase sorpresa mentre scuoteva il suo orologio, pensandolo fermo. Fieri della riuscita di quello scherzo, tornammo a casa, dove però venimmo rimproverati dai nostri genitori. Lei invece, al rientro all'albergo, dove aveva preso una camera in affitto, incontrò il cameriere che le chiese come mai di ritorno così presto. Ecco, lo scherzo era stato scoperto. E pensò bene di venirci a trovare a casa quel pomeriggio, dove ci trovò tutti riuniti, visto che avevamo approfittato della giornata a disposizione insolitamente lunga. Stranamente però, pur riprendendoci, non si arrabbiò e approfittò per rimanere un po' in compagnia dei genitori. Non so, e sinceramente non ricordo, se quello scherzo fece compromettere la situazione della nostra maestra, ma sicuramente contribuì a peggiorarla. Quando i nostri genitori si accorsero dei metodi della maestra che avevamo quell'anno, cominciarono a preoccuparsi e addirittura fecero anche degli incontri tra di loro per vedere il da farsi. E penso, anche se non lo so di preciso, che contattarono anche il dirigente scolastico. Alla fine la maestra Anna venne rimossa dalla scuola e sostituita da un'altra, appena uscita dalle scuole delle suore, con metodi rigidi e severi, che ci fece recuperare il tempo perduto. Il clima cambiò completamente, passando all'estremo opposto. Di Anna abbiamo perso completamente le tracce. Sicuramente non aveva metodi tradizionali di insegnamento. Immagino i programmi previsti non venissero seguiti proprio alla lettera. Ma forse lei voleva solo aprirci la mente, non riempirci la testa di nozioni, ma insegnarci che la fisica poteva essere studiata concretamente, che la scuola non doveva essere solo un luogo dove si faceva studiare o fare i compiti agli alunni. Però aveva sbagliato i tempi, i luoghi e probabilmente anche i metodi. Addirittura impensierendo i genitori che mai e poi mai dubitavano sull'operato e sui giudizi delle maestre. Una sorta di professor Keating uscito dall'attimo fuggente, capitata lì nel posto sbagliato al momento sbagliato. Signora maestra, maestra Anna, ci scusi se l'ultimo giorno non le abbiamo fatto un saluto memorabile come nel film, ma noi di quel sistema alternativo di insegnamento avevamo solo capito che c'erano pochi compiti, poco da studiare e che la scuola era diventata più libera e spassosa. Se però può rincuorarla, le possiamo dire che ci ha lasciato dei ricordi che ancora oggi quando ci ritroviamo, rievochiamo nitidamente come non riusciamo a fare per nessuno dei restanti 5 anni di insegnamento. Mi ricorda moltissimo Don Agostino Braga. Per uno che ha fatto le scuole medie in seminario non è particolarmente strano avere un prete come insegnante di storia e geografia. La cosa strana era che Don Agostino, la prima volta che si presentò in classe, lo fece con in mano una bacchetta di bambù lunga quasi 1,5 metri, dicendo: «Questa non la userò per darla sulle mani degli studenti, ma per indicare la cartina geografica, perché la geografia è l'occhio della storia». Era un prete appassionato di guerra. Passava intere lezioni a raccontare piccoli fatti della vita quotidiana durante l'ultimo conflitto mondiale. Lo raccontava così nei dettagli che un giorno uno di noi gli chiese se per caso ci avesse partecipato a quella guerra. E lui si arrabbiò moltissimo, usando sulle sue mani la bacchetta che invece avrebbe dovuto indicare solo la cartina geografica. Quando arrivò ad insegnare da noi, alle scuole medie, era già piuttosto vecchio, con diversi anni di carriera scolastica alle spalle. Era stato una sorta di fenomeno al ginnasio del seminario, dove sfidava gli studenti a leggergli un verso della Divina Commedia, al quale era in grado di rispondere con una terzina che lo precedeva e quella che lo seguiva. Era un cervello fine, quello di Don Agostino, che era arrivato un po' stanco agli anni in cui i suoi alunni eravamo diventati noi. E noi avevamo 13 anni e ce ne approfittavamo come i ragazzini che sentono di avere la possibilità di movimento possono fare. Ne abbiamo fatte di tutti i colori con il povero Don Agostino. Chiudevamo il migliorini negli armadietti per i giubbotti e dicevamo che c'erano i fantasmi quando lui si metteva a urlare. Oppure tiravamo i gessetti sulle veneziane e mentre cadevano listella per listella urlavamo che ci stavano mitragliando. E ogni volta che dovevamo andare in bagno, non chiedevamo di andare ai servizi, c'era una formula che lui stesso aveva istituito, secondo cui dovevamo andare alla cattedra e chiedere: «Don Agostino, posso andare in Cambogia?» E lui rispondeva sempre così: «Va bene, vai pure, ma attento che io in Cambogia ci ho visto dei serpenti lunghi così». Insomma, era un insegnante piuttosto originale, Don Agostino, e da un punto di vista didattico non è che fosse proprio il massimo della vita. Me lo ricordo anche io con un affetto superiore agli altri insegnanti che ho avuto. Una volta, per spiegarci com'era dura la vita in trincea dei soldati durante la guerra mondiale, arrivò in aula con un elmetto in testa e un vecchio fucile con una baionetta preso chissà dove. E si infilò sotto la cattedra, davanti agli occhi entusiasti ovviamente di tutti noi. Il problema sopraggiunse quando fu il momento di uscire. Don Agostino rimase incastrato sotto la cattedra con tanto di elmetto e di archibugio. Lui non fu allontanato ovviamente, o almeno non quell'anno, e non so dove sia finito adesso Don Agostino. Però ha ragione Leo quando, parlando della maestra Anna, dice che certi insegnanti sembrano sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato. Non hai mai visto un uomo piangere? Apri bene gli occhi, sai, perché tu ora lo vedrai. Apri bene gli occhi, sai, perché tu ora lo vedrai. Se tu non hai mai visto un uomo piangere, guardami, guardami. Serena scrive: terza media, nuovo professore di matematica. Dopo 2 anni di frammentari e supplenze entra lui, magro, barba lunga e camicia a quadri, patito di De André. Si presenta in classe con una chitarra classica e inizia a intonare Marinella. Una volta a settimana ci portava in campagna, in montagna o al mare, senza nemmeno nominare i numeri di cui si parlava per i restanti giorni. Beh, credo che sia stato un anno in cui ho appreso di più di quel che so di matematica e ho imparato ad amare De André e la vita all'aria aperta. Serena, 349-238-6666, quel maestro, quell'insegnante che vi ricordate perché, insomma, perché avete capito, perché era un po' diverso, aveva un metodo di insegnamento particolare e quello lo ha reso memorabile nella vostra storia, nella vostra esperienza. È stato sicuramente così per Leo nei confronti della maestra Anna, al punto che dice: quando ancora ci riuniamo, quei pochi che eravamo, ce la ricordiamo molto bene. Pronto, Leo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi? Sono sul lavoro adesso. Mi ricordi che lavoro fai? Perché ho sentito all'inizio, ma mi è sfuggito. Lavoro in un ufficio dove facciamo dichiarazione dei redditi e contabilità. Ah, ok. Si chiama l'APAM. Beh, vabbè, quindi insomma sei tipo commercialisti, consulenti del lavoro, cose del genere. Esatto. Mi spieghi invece dov'è Oca di Gombola? Oca di Gombola è una piccola borgata sull'Appennino modenese. E si trova tra il confine di tre comuni, Pavullo, Serra e Polinago, e lì raccoglieva i bimbi che abitavano lì attorno. Ma e voi eravate in quanti? In sei, sette, in tutta la scuola, mi pare. Esatto, esatto. Poi si è andato gradualmente riducendo, e l'ultimo anno, quando io facevo la quinta, eravamo in quattro. Tre di quinta e uno di quarta. Poi hanno chiuso la scuola per mancanza di bambini. Quindi tu sei stato in una classe, in una scuola in cui eravate in quattro. Esattamente, era una pluriclasse. Alla fine degli anni 70, non negli anni 50. No, 70. Che shock è stato andare alle superiori, se ci sei o alle medie? O... No, è stato un bel cambiamento, ma non così eccessivo. Allora poi... c'erano più scuole sparse sul territorio, quindi eravamo tutti magari abituati, partiti da ambienti piccoli. Ma quindi eravate in una scuola, mi divertiva il fatto che ci fosse una proprietaria che faceva anche la bidella. Sì, faceva tutto lei. Ma era la proprietaria? La bidella apriva, chiudeva la scuola, tra l'altro era una stanza che aveva messo a disposizione per la scuola. Leo, dove abiti adesso? Abito... dove abitavo allora, quindi a un chilometro di quella scuola. Ah, quindi sei sempre dalle parti di Oca di Gombola. Sì, esatto. Ma io me lo immagino, poi andiamo, scusami, perché questo nome, già il significato del nome mi sfugge, se c'è un significato al nome. E poi non, me lo immagino, non lo so se c'è un significato. Me lo immagino come uno di quei luoghi in cui gli inglesi arrivano e comprano splendidi casali sugli Appennini, è così? Può essere, anche se gli inglesi di solito magari sono più per la Toscana, però sì, può somigliare, infatti si trova proprio su una collina come in Toscana. Invece, Leo, veniamo alla maestra Anna. Noi non ne sappiamo più niente, ovviamente, di lei, vero? No, tra l'altro noi ogni anno cambiavamo maestra e nonostante ci rimanesse solo un anno riuscivamo comunque a legare parecchio, perché diventava tipo una famiglia per noi. Quella maestra lì che rimase, penso, circa due mesi, abbiamo perso completamente le tracce poco dopo. Anche perché lei proveniva da lontano, è l'unica che è venuta lì e aveva preso un albergo dove dormire per essere vicino. Mi immagino al momento in cui si decidevano le cattedre, a quella a cui capitava Oca di Gombola, Oca di Gombola si metteva le mani nei capelli, disperata probabilmente. Esatto. Invece lei rimase appunto per quei due mesi lì e se non ho capito male dal tuo racconto, quando vi incontrate immagino che abitiate tutti lì ancora, no? Quelli con cui sei cresciuto. Parte. Più della metà abitiamo ancora lì in zona. Quando ci si ricorda di una maestra ci si ricorda di lei, di Anna. Sì, è la prima che viene in mente, anche quella dopo, perché siamo passati all'estremo opposto, quindi con metodi abbastanza duri e severi, però lei quei due mesi lì sono i più concentrati di ricordi. Ma tra l'altro, scusami, era il 77, lei aveva 35 anni, quindi adesso questa donna avrà attorno ai 60... 62, avrà una settantina d'anni adesso. Sì, sì. Potrebbe essere ancora con noi, potrebbe lottare insieme a noi e magari se in qualche modo qualcuno che la conosce, Anna, di cui non ricordiamo il nome, ma meglio anche così, la maestra Anna che ha insegnato a Oca di Gombola, questo nome io non riesco a togliere, è da quando ho letto il tuo racconto, Leo, che mi chiedo prima dov'era, poi in realtà l'ho cercato ovviamente, ma che mi chiedevo che significato avesse, perché ci deve essere un significato per chiamare un posto così, dai. Sì. Gombola, che cos'è Gombola? C'è un paesino lì vicino? Gombola è la frazione. Ah, ok. È la frazione di cui fa parte Oca di Gombola. Certo. Come sbagliarsi? Insomma, se ci dovesse essere qualcuna che da ragazza ha fatto la maestra e che è passata da quelle parti, sarebbe bello trovare il modo per rimettersi insieme. Volentieri, sarebbe bello. Leo, molto. Ti ringrazio per la telefonata, ti faccio tornare al tuo lavoro. Perché grazie a te, perché te l'ho detto, sei bravissimo a leggere i racconti. Va bene, Leo, grazie a te che l'hai mandato. Buona giornata. Altrettanto. Ciao, presto, ciao, grazie, stava già mettendo giù, era già con la connetta, ciao. Non avevo una famiglia come le altre, dalla scuola ho avuto tutto, ora insegno e spero bene per i bimbi, solo non vedo quote azzurre per gli uomini. In che senso? Tra i maestri? Ma è che i maestri non lo vogliono fare, probabilmente. Vabbè, a più tardi, adesso la borsa e poi voi siete qui. Questa è la prima volta che ho una classe tutta mia. La quinta C nella scuola Francesco Ruffini a Tiburtino Terzo. Una delle tante borgate della periferia romana. Erano anni che attendevo questo momento. Voi siete qui. È quasi il crepuscolo nella foto che ci manda Leo. E lo immagino su una strada di oca di gombola, ovviamente, con un prato alle sue spalle. È una strada asfaltata, ma di quelle asfaltate tanti anni fa. Forse sto esagerando adesso. Una strada asfaltata con un prato, è sulla strada. Sostanzialmente è per strada, Leo, nella foto che ci ha mandato. C'è qualcosa però di poetico. Sarà l'alone di oca di gombola che aleggia intorno a lui. Lui ha su una bella magliettina... insomma, bella, Leo, è probabilmente la maglietta che usi la domenica o quando devi sporcarti, immagino, comunque una t-shirt azzurra, ed è insieme a un cane, che immagino il suo cane con la bocca spalancata, credo stia sbadigliando, però c'è un bellissimo taglio di luce sul suo viso, e ha una faccia simpatica, Leo. Maestra, sostantivo femminile, donna cui è affidata l'educazione dei bambini nella scuola primaria, negli asili nido o nella scuola per l'infanzia, tecnicamente in questo caso educatrice d'infanzia. Donna che istruisce in una determinata arte o attività. Donna fornita di una spiccata competenza o abilità in determinati campi. Nel linguaggio marinaresco, la vela maestra. Foglio di carta o cartone posto sul piano della platina o sul cilindro delle macchine tipografiche per rendere più elastica l'impressione. Etimo, latino, magistra, derivato di magis, più. È ufficialmente partita una ricerca da parte nostra, di tutta la redazione, ma anche degli ascoltatori, di Oca di Gombola. Mi scrive Loris da Trieste, neanche il navigatore lo trova e l'ho appena aggiornato, quindi figuriamoci. Ho provato a inserire Oca di Gombola su Google, non c'è, però se inserisco Gombola... vabbè, questa è chiaramente è la malignità degli algoritmi di Google. Escono, a parte Benvenuti in Gombola e poi percorsi gastronomici a 25 euro, compreso il dolce, ma le immagini che escono sono tre. E sono una viuzza di un paesello la sera, innevata, con delle luci che illuminano il bianco della neve e i muri. Due signori anziani su una panchina, lei con un grembiule, quindi probabilmente gestori dell'unico bar di Oca di Gombola. E poi una vecchia cattedrale, credo, che sembra un po' diroccata, un po' fuori dal paese. Niente, tutti vogliono sapere dov'è Oca di Gombola. Io ho il panico che questo weekend, visto che è previsto bel tempo, Oca di Gombola verrà immediatamente popolato da migliaia di persone. Sto esagerando, lo so, da un po' di persone che hanno voglia di farsi una gita e scoprire cos'è e dov'è soprattutto Oca di Gombola. C'è una certa somiglianza tra la scuola di Oca di Gombola, voglio riuscire a dirlo almeno 100 volte in questa puntata, Filippo, te lo dico, Aureggi, sappi che io dico Oca di Gombola almeno 100 volte in questa puntata. C'è qualche somiglianza tra Oca di Gombola e la storia che sto per leggervi, che è ambientata in un paesino che si chiama Barbiana. La storia risale a diversi anni fa, era il 1954, quando Don Milani viene gentilmente allontanato dalla curia di Firenze, dal posto in cui si trova, e viene mandato appunto a Barbiana, che è proprio un paesello sperduto nel Mugello. Barbiana è proprio un paesello fatto di poche case, casali per lo più, e poi c'è questa scuola. È una scuola che Don Milani comincia a gestire, dove raduna i ragazzini che vivono lì. Quando c'è bel tempo, lui dice, si fa scuola all'aperto sotto un pergolato. La scuola di Barbiana diventa in realtà un grande modello di scrittura collettiva, un esempio di insegnamento particolare, e da lì esce questo testo, che è un libro che è scritto come se fosse scritto da un unico ragazzo, però in realtà nasce dalla penna di tutti quanti gli allievi di Don Milani. Si chiama Lettera a una professoressa, è un testo del 1967, ed è un testo di protesta, in cui i ragazzi e Don Milani sostanzialmente scrivono a questa professoressa identificandola come il sistema che isola i poveri privilegiando i ricchi. Non vi spiego di più, voglio leggervi però una sorta di introduzione a questa lettera e l'inizio di Lettera a una professoressa. Questo libro non è scritto per gli insegnanti, ma per i genitori. È un invito a organizzarsi. A prima vista sembra scritto da un ragazzo solo, invece gli autori siamo 8 ragazzi della scuola di Barbiana. Altri nostri compagni che sono a lavorare ci hanno aiutato la domenica. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il nostro priore che ci ha educati, ci ha insegnato le regole dell'arte e ha diretto i lavori. Poi moltissimi amici che hanno collaborato in altro modo, per la semplificazione del testo, vari genitori, per la raccolta dei dati statistici, segretari, insegnanti, direttore, presidi, funzionari del Ministero e dell'Istat, parroci. Per altre notizie, sindacalisti, giornalisti, amministratori comunali, storici, statistici e giuristi. Cara professoressa, lei di me non ricorderà nemmeno il nome, ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate. 2 anni fa, in prima magistrale, lei mi intimidiva. Del resto la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo non alzavo gli occhi da terra, strisciavo alle pareti per non essere visto. Sul principio pensavo che fosse una malattia, mia o al massimo della mia famiglia. La mamma è di quelle che si intimidiscono davanti a un modulo di telegramma, si figuri. Il babbo osserva e ascolta, ma non parla. Più tardi ho creduto che la timidezza fosse il male dei montanari. I contadini del piano mi parevano sicuri di sé. Gli operai poi non se ne parla. Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità nei partiti e tutti i seggi in Parlamento. Dunque, son come noi. E la timidezza dei poveri è un mistero antico. Non glielo so spiegare io che ci sono dentro. Forse non è né viltà né eroismo. È solo mancanza di prepotenza. I should not if it when my heart can't follow. Cause this grace gets so far and too hard to swallow. Oh, how you can breathe with your hands on cibo sostanzialmente trovi quando cerchi oca di gombola. E ho trovato addirittura un articolo di questi food blog che ormai vanno fortissimo, che inizia così: ci sono pochissimi motivi perché si debba sapere dell'esistenza di Gombola, piccolo centro quasi disabitato incastrato in fondo alla Val Rossenna. Perché sei un appassionato cicloamatore, oppure perché sei un appassionato di cibo. Parla delle tigelle, parla di robe da mangiare che vabbè, paiono buonissime. Non siamo qui a raccontare tutto adesso. Comunque andate a o magari non andateci, però sappiate che esiste Oca di Gombola. 349-238-6666, qualcuno mi scrive. Mi sembra la storia di Bocca di Rosa solo in un altro contesto, quello della maestra Anna. E poi uno mi scrive: Brunetti Giovanni, matematica da Andrea Cisano, bergamasco anni 90. Chissà, magari all'ascolto. Non ho capito se tu sei Brunetti Giovanni o Andrea Cisano o là uno il professore o viceversa. Grazie a tutti quelli che hanno fatto la puntata di oggi. Sono Filippo Aureggi, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi, soprattutto quella, era la storia di Leo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Roberto Giulietta, chiamo da Torino, la storia di domani è la mia e parla di come consolare uno sconosciuto. Questa è la mia storia e io sono qui.